passo alla Lega, non rispondo a questa domanda. Una proposta che non si può rifiutare. Non mi si può chiedere di accendere la miccia del candelotto di dinamite collocato sotto la mia casa, io non ci sto, non lo posso fare. Questione di legittima difesa. Sia bene attento a invocare l'applicazione della clausola antidefezione. Una proposta che non si può rifiutare. Non mi si può chiedere di accendere la miccia del candelotto di dinamite collocato sotto la mia casa, io non ci sto, non lo posso fare. Questione di legittima difesa. Sia bene attento a invocare l'applicazione della clausola antidefezione. Per me è aberrante.